madre mia, il catalogo è questo, delle belle camo il padron mio, un catalogo è vecchio a fatio, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, cento in Francia, in Turchia 99, in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, 1003, ma tra queste contadine, cameriere cittadine, contessi baronesse, marchesane, principesse, e padroni, donne in grado, donne in forma, donne in età, donne in forma, donne in età. In Italia, 640, in Germania, 231, cento in Francia, in Turchia, 91, mamma, mamma, in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, 1003, tanta questi contadini, cameriere, cittadini, ma contesse, baronesse, marchesani, principesse, che vanno ogni con il canto, ogni forma, ogni forma, ogni forma. Voi sapete dei dio E sol che metti io so mai de E sol che metti io so mai de Bist du so gehorchen, der Scher, so gehorchen, der Scher? Fuori tu bellissimo per dei capelli

Thank you. Oh! si può morire, si può morire amore, la donna è morta.